Letture di Radio 24. Nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il presidente turco non trova niente di meglio da fare che dichiarare che le donne non sono uguali a noi e non possono ricoprire le stesse posizioni. Dalla rete piovono critiche e ironia, come era successo l'estate scorsa, quando il vice premier turco aveva invitato le donne a non ridere in pubblico. Non esiste l'uguaglianza tra uomini e donne, piuttosto si può parlare di equivalenza. Non poteva scegliere un giorno migliore il presidente turco Erdogan per far infuriare le cittadine del suo paese. Martedì scorso, infatti, era la giornata mondiale contro la violenza sulle donne e lui, intervenuto il giorno prima a un convegno a Istanbul organizzato dal Ministero della Famiglia e dall'Associazione Donne e Democrazia, non si è fatto scrupolo di esternare la sua posizione piuttosto conservatrice in merito. Gli uomini e le donne non possono ricoprire le stesse posizioni. Questo è contro natura perché sono diversi per indole e costituzione fisica. Per esempio, ha aggiunto, nel mondo del lavoro non si possono imporre le stesse condizioni a una donna incinta e a un uomo. Non si può dire a una donna prendi una vanga e scava tutto il giorno. Ci si sarebbe aspettato che Papa Tayyip, come lo chiamano i suoi sostenitori, si scagliasse contro la violenza domestica che rimane una piaga endemica in Turchia. Dal 2009 al 2012 sono state 666 le donne uccise da mariti e familiari e i reati di natura sessuale sono aumentati del 400% negli ultimi 10 anni. Il presidente se l'è presa con le femministe che, a suo dire, rifiutano il concetto di maternità. Già in passato Erdogan si era attirato gli strali delle cittadine quando le aveva invitate a fare almeno 3 figli. E lunedì scorso ha ribadito che è questo e solo questo il ruolo delle donne. La nostra religione, l'Islam, ha definito una posizione per le donne, la maternità. L'uguaglianza, ha aggiunto il fondatore dell'AKP, il partito che guida la Turchia dal 2002, trasforma la vittima in carnefice e viceversa. Erdogan, per rendere chiaro il concetto, ha citato le parole del profeta Maometto. Il paradiso giace ai piedi delle madri. Di sicuro le parole del presidente non sono piaciute a quella donna che è stata portata via dalla sicurezza prima che potesse porre una domanda, né sono piaciute al popolo di internet. Lunedì si sono susseguiti i tweet di biasimo proprio come quando, lo scorso luglio, il vice premier aveva intimato alle donne di non ridere in pubblico. Allora, centinaia di migliaia di foto di cittadine turche sorridenti sommersero Twitter. Lunedì, invece, sono prevalse le parole. Come scrittrice turca e come donna, protesto con tutto il mio cuore contro l'affermazione che gli uomini e le donne non sono uguali. È il tweet di Elif Shafak, l'autrice della Bastarda di Istanbul. Questi commenti faranno aumentare ancora di più la violenza contro le donne, è il commento dell'avvocata Hulya Gulbahar, attivista per i diritti delle donne. Erdogan forse pensa che le femministe siano lesbiche, ironizza Ferdi Karefur, un'autorità su Twitter. Resta la realtà. La Turchia è al 120° posto su 136 nazioni nell'indice sul divario di genere del World Economic Forum. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Monica Ricci Sergentini, Le donne non sono uguali a noi, e scatta la rivolta contro Erdogan, dal Corriere della Sera del 25 novembre. Non ci crederete, ma ecco di cosa è capace un cane. In una stanza ci sono 6 contenitori metallici disposti in cerchio, ognuno dei quali contiene un batuffolo di cotone. Solo uno dei batuffoli è impregnato dell'urina di un malato di tumore alla prostata. Gli altri appartengono invece a persone sane. Liu fa un giro veloce annusandoli a uno, poi ripete il giro, più lentamente. Giunta al terzo batuffolo, lo annusa più a lungo, si ferma e si siede. Ha indovinato, ha fiutato il tumore alla prostata. Poi è la volta di Zoe, un giro veloce, uno più meditato. Zoe annusa e si siede esattamente di fronte al batuffolo con le tracce di tumore. Liu e Zoe sono 2 pastori tedeschi di circa 6 anni, in forza al centro militare veterinario dell'esercito italiano, dove si addestrano cani per scopi militari e cavalli per gare sportive. Sebbene selezionate per cercare esplosivi in zone di guerra, Liu e Zoe sono state le prime attrici in un esperimento sulla diagnosi del tumore alla prostata. I risultati sono così sorprendenti che giornali come il New York Times e riviste scientifiche come Nature li hanno ripresi. Gianluigi Taverna, responsabile della sezione di patologia prostatica all'Istituto Humanitas di Milano e primo autore della ricerca, riassume così i risultati. Il nostro studio dimostra che cani opportunamente scelti e addestrati riescono a riconoscere uno specifico tumore alla prostata con una sensibilità di oltre il 98%. Questa capacità è indipendente dallo stadio e dal volume del tumore, dall'età del paziente e dal valore del PSA, la proteina nel sangue che viene misurata per diagnosticare il cancro alla prostata. E per ora non esiste uno strumento diagnostico con una sensibilità paragonabile all'olfatto dei cani. Gli attuali strumenti per la diagnosi sono molto meno efficienti dei recettori canini. Quando facciamo una diagnosi, osserviamo il valore del PSA nel tempo. Se sale troppo, prescriviamo una biopsia, spiega Taverna. Ma la biopsia ha una sensibilità del 30% e va ripetuta nel tempo se il paziente risulta negativo alla prima. Invece questi cani riescono a individuare un tumore agli stadi iniziali con estrema precisione. Addirittura l'IU ha una sensibilità del 100%. Esistono due importanti sviluppi di queste ricerche. Il primo riguarda la possibilità di diagnosi per il tumore alla prostata molto più precise. In linea di principio, in un centro diagnostico dotato di esperti cinofili, due cani potrebbero fare diagnosi per 80 pazienti al giorno, dice Taverna. Ma è indispensabile che ci sia personale cinofilo specializzato. Stiamo chiedendo alle autorità del Ministero che si avvii una sperimentazione. Il secondo possibile sviluppo è più teorico. Se si riuscirà a individuare che cose esattamente i cani sentono, potrebbe aprirsi la strada a strumenti analoghi, capaci di sostituire i recettori olfattivi canini. E quelli che avete ascoltato erano alcuni passaggi dell'articolo di Luca Sciortino, Cani che fiutano il cancro, da Panorama del 3 dicembre. Che fine ha fatto la lotta al fumo dell'Italia? Non ce n'è più traccia, secondo le decine di società scientifiche che hanno sottoscritto un appello denuncia dal titolo «A favore di una strategia di endgame del tabacco». La controffensiva cade nel 10° anniversario della legge Sirchia, approvata a dicembre 2004, entrata in vigore il 10 gennaio del 2005, che incluse nell'elenco dei luoghi proibiti uffici privati e locali pubblici. Le sigarette sparirono dai ristoranti come nel 75 era successo nei cinema. Interventi efficacissimi ai quali è seguito il calo progressivo dei fumatori, dal 30% del 2003 al 20% del 2012. Ogni azione produce un effetto immediato sulla salute, ma in Italia questo comporta anche una riduzione del gettito fiscale dovuto all'accisa sul tabacco. I produttori esercitano pressioni su governi, parlamentari e agenzie centrali. È l'accusa dei firmatari coordinati da Fabrizio Faggiano, presidente dell'Associazione Italiana Epidemiologia. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la visita del premier Renzi al nuovo impianto della Philip Morris a ottobre, in provincia di Bologna. Nella classifica dei paesi che hanno risposto agli adempimenti, contenuti in una dichiarazione internazionale contro il tabacco dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'Italia è scivolata dall'ottavo posto del 2006 al quindicesimo del 2013, superata anche dalla Turchia. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Margherita De Bac, Che fine ha fatto la lotta al fumo? L'allarme delle società scientifiche, dal Corriere della Sera del 25 novembre. Si intitola Affari di famiglia il secondo romanzo di Francesco Muzzopappa, autore di divertenti video molto popolari su YouTube come Le fiabe brevi che finiscono malissimo. È raccontato in prima persona dalla protagonista, la contessa Maria Vittoria dal Pozzo della Cisterna, che per colpa della crisi si trova a dover vendere gran parte delle sue proprietà e a rinunciare ai lussi cui era abituata. Ma il vero problema è che suo marito, morto in un incidente, ha lasciato tutto in eredità al figlio Emanuele, un ragazzo totalmente privo di qualità e capace solo di sperperare quel poco che rimane del capitale di famiglia. Un giorno il ragazzo, che da qualche tempo vive da solo, va a trovare sua madre, che vedendolo arrivare, capisce che può solo aspettarsi il peggio. Emanuele arriva puntuale alle 12. tutto impegnato nel suo incedere sgraziato, mi si presenta in maglietta verde slavata e jeans larghi, in testa un panama e ai piedi un paio di scarpe da ginnastica gonfie. «Ciao, ma!» E parla ancora come fosse un ragazzino orgoglioso dei primi fili di peluria sul labbro superiore. «Emanuele, ti sembra il modo di conciarti? Il panama me l'hanno regalato!» Non mi riferisco al panama, sciocco, parlo dell'insieme. Ormai discutere con lui è come tirare di fioretto. Non riesco a fare a meno di punzecchiarlo, è più forte di me. Lo riempirei di parolacce, se fosse mia abitudine, ma in vita mia ho sempre evitato scurrilità. E non perché sia una puritana. Ho la profonda convinzione che per denigrare la gente non occorra attaccarsi a termini volgari. Riesco perfettamente a mettere una persona a disagio usando sorrisi acidi, mezzi complimenti e occhiate ambigue. Dunque, cosa ti porta qui? Guarda, Emanuele, che se il tuo fisso mensile è già terminato e sei venuto a elemosinare i soldi dal mio portaspiccioli, caschi male. Nel mio borsellino abitano ormai le tarme. Tanto lo so che c'è qualcosa dietro. Negli anni ho imparato che quando il babbeo mi si presenta in casa all'improvviso non è certo per augurarmi buona giornata o per regalarmi un cabaret di frolle fresche del Baratti e Milano. Di solito viene a raccontarmi una serie di guai da cui io devo in qualche modo tirarlo fuori chiamando in soccorso Tizio o Caio, e quando sei ricco Tizio o Caio ti vengono subito in aiuto. Ma quando sei ridotto in miseria quei due nemmeno ti rispondono. Allora dimmi. Cosa sei venuto a fare? Ho una giornata molto impegnata, per cui spicciati. Mamma, devo parlarti. Mi siedo sull'unica frau rimasta nell'intero palazzo, color ocra. Allora, forse hai saputo che da qualche settimana frequento una ragazza con cui ho trascorso le vacanze in Francia. Certo che ho saputo. Non da te, ma ho saputo. Ecco, la ragazza si chiama Ludmilla e ormai facciamo coppia fissa. La cosa non mi entusiasma. Dovrebbe. Lei per me è importante e per dimostrarglielo le ho regalato il diamante di famiglia. Mi aggrappo ai braccioli infilzandoli con le unghie. Sbianco, il mio tono di voce sale di 2 ottave. Tu hai cosa? Le ho donato come pegno d'amore il nostro Koh-i-Noor. Il Koh-i-Noor? Ma lo sai quanto vale quel diamante? Ma che cosa hai al posto del cervello? Una medusa spiaggiata? Papà mi fece promettere di regalarlo alla donna migliore, a una persona degna e di cuore. E pensi che quella sia la donna migliore? Certo, col suo profumo fresco e inebriante che ricorda l'odore della rugiada al mattino, i suoi capelli lucidi come le onde di un mare increspato dal vento, mi dice, fissando con trasporto le travi tarlate del soffitto. Emanuele? Gli faccio schioccando le dita per riportarlo alla realtà. Sì? Rinviene. Credo tu sia diventato scemo. Mamma, ti sto solo aprendo il mio cuore. Per quel che mi riguarda puoi anche richiuderlo. Mi tiro su dalla poltrona fissando il cretino. Apro il mobile bar fissando il cretino. Riempio il bicchiere fissando il cretino. Mando giù un bicchiere di vermouth, ne riempio un secondo. Ora sei più calma, mamma? Affatto. Sono solo più ubriaca. Mi spiace che tu la prenda così. E come dovrei prenderla? Hai dato via il più importante gioiello di famiglia. Perché fai così? Non capisco. Non è una novità. Tu insulti la mia intelligenza. Allora non corri pericoli. Ma lo sai in che condizioni versiamo ormai da mesi? Non ti rendi conto che la stampa già parla di noi e di quanto le nostre finanze stiano crollando a picco? Li leggi i giornali la mattina o compri ancora Topolino? Mamma, è solo un gioiello. È solo un gioiello. Tu proprio non ci arrivi, vero? Gli dico, con 2 lame al posto degli occhi. Non hai mai partecipato alle spese per la casa, te ne freghi quando ti chiedo di contribuire al pagamento delle tasse. Solo quest'anno ho dato allo Stato una quantità di soldi da comprarci un attico sugli Champs-Élysées. Non ho più una lira, Emanuele. Cosa devo fare per ficcarti in testa il concetto? Un affresco? Ne stai facendo una tragedia. La tragedia la faccio sul serio se non riprendi quel diamante. Come posso riprenderlo? Gliel'ho regalato e poi io l'amo. Quando ti renderai conto che quella donna è solo un vampiro succhia soldi? Quando metterai i tuoi testicoli all'asta su eBay? Mamma, quel Vampiro ti considera già una seconda madre. Beh, dille pure che può considerarsi orfana, e se non la pianti, Emanuele, prima o poi lo sarai anche tu. Non so quanto a lungo le mie coronarie possano sopportare questa, non so, buffonata. Dovrai abituartici. Potrebbe diventare la madre dei tuoi nipoti. Una disgrazia alla volta. Il solo pensiero che tu possa anche riprodurti non lo farai, vero? Da quando in qua ti interessi della mia vita sessuale? Da quando ho un bicchiere di cristallo in mano e ho tutta la voglia di lanciartelo contro? E va bene, quando è così, me ne vado. E chiudi bene la porta quando esci, gli dico. Rimango sola con la mia rabbia. Verso un terzo bicchiere di vermouth, scolandolo come fosse cedrata, e mi lascio scivolare nella frau, esanime, con la testa in fiamme. Sul sole 24 ore. Si divertiranno a trafiggerci come arrosticini abruzzesi. Stavolta non ce la caveremo così facilmente. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal romanzo di Francesco Muzzo Pappa, Affari di famiglia. Fazzi Editore, 220 pagine, 14,50 euro.